Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità. La voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Per contribuire a farla vivere c'è il numero di conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volsci 56, 00185 Roma. Oppure sulla homepage del sito internet della radio ondarossa.info c'è l'opzione Sostieni per la modalità PayPal. Diamo inizio a visionare il cinema su Radio Onda Rossa. Per saperne di più su questo appuntamento settimanale, la scaletta la trovate sul sito internet della radio alla voce Trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, e per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Danilo Licciardello, co-direttore dell'undicesima edizione del Festival delle Terre qui a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, da domani 17 ottobre fino al 19. Danilo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao, ben ritrovati a voi. Quali sono, intanto, per chi ci ascolta, spieghiamo subito le caratteristiche di questo festival. Allora, il Festival delle Terre, appunto, come dicevi, è arrivato all'undicesima edizione, premio internazionale della biodiversità, e abbiamo quest'anno 14 film, 13 in concorso. Si parla di cibo, ma con un'accezione molto molto estesa, nel senso che si parla di cibo, ma soprattutto di chi produce il cibo, o di chi vorrebbe produrlo, o di chi si vede negato il diritto a produrlo. Questo è un po' un contesto ampio possibile del festival. Senti, per quanto riguarda l'offerta, volevo chiederti quanti sono i film e le opere che presenterete in questa edizione. Allora, sono 14, di cui 13 in concorso e uno no. Insomma, uno è un web doc che apre il festival, e quindi domani alle 17, e si chiama Il lato oscuro del pomodoro. Appunto, tornando alla domanda invece all'inizio, si parlerà di cibo. In questo caso proprio Il lato oscuro del pomodoro rappresenta bene, credo, il concetto che sta dietro al festival, perché lo utilizzeremo appunto fuori concorso come provocazione per un incontro dibattito che ci sarà, appunto è l'unico incontro che c'è nell'ambito del festival, in cui si parla specificamente di dumping, cioè chi produce il pomodoro e dove, e come mai spesso, insomma, le persone che producono pomodoro, in questo caso o in Ghana, poi si trovano a venire in Italia o a cercare di venire in Europa. Per sì. Cui si affronta il tema dell'alimentazione in senso abbastanza ampio. Sì. Senti, ecco, le tematiche più ricorrenti nei lavori che offrirete al pubblico quest'anno. Allora, è una bella domanda, perché sono varie, nel senso è proprio un crocevia di temi. Appunto, ti dicevo, si parla di cibo, ma in senso ampio. Una giornata interamente dedicata ai migranti, e si chiama Pensieri Migranti, appunto, è quella di domani. E spesso, appunto, migranti sono produttori di cibo, sono contadini e contadine che stanno in quella per il mondo, e poi si trovano a dover andare via dalla propria terra. Molte volte si pensa che vanno via solo perché c'è una guerra o perché c'è una calamità naturale, spesso è un'emigrazione economica. Sì. E quindi ci sono, appunto, ormai centinaia di casi di dumping, in cui le aziende del cosiddetto nord del mondo si trovano finanziamenti, incentivi, insomma, si trovano la possibilità di esportare cibo al sud, e mettono nell'impossibilità di produrre, appunto, i contadini del sud del mondo, che poi vengono su. Quindi ne seguiremo le vicende, diciamo, per tutto l'arco che poi riporta qui. Rispetto a questo deciderei due film, perché sì. Tra l'altro c'è una caratteristica il Festival delle Terre, anche se non è competitivo, è appunto il Festival del Cinema di Roma, però porta fortuna, nel senso che sono due lavori che hanno appena vinto. Uno è Destination Dédier di Andrea Cataleta, che abbiamo ospitato anche lo scorso anno al festival, e qui siamo al Granghetto di Foggia, sul Tavoliere Pugliese, una capitanata, è lo slam più grande che abbiamo in Italia a presenza africana. Ha appena vinto il Festival del Mediterraneo, Cinema, Lavoro e Immigrazione, sia come miglior film che il premio della giuria. E l'altra segnalazione che si veniva a fare era The Land Between di David Fedele, e anche lui sarà in sala a presentare il film. Questo lavoro invece ci porta sulle montagne di Marocco, di fronte a Melilla, per cui vediamo come si preparano veramente i migranti a tentare di entrare in Europa da quella finestra lì. Sì, per sì. Cui cioè, per farla breve, ma è significativo perché rende l'idea: ci sono tre muri di 8 metri con il filo spinato sopra che le persone tentano di scavalcare per venire da noi. Ma al di là di questo si raccontano e ci spiegano come mai lo stanno facendo, da dove arrivano e perché, e appunto a livello di linguaggio questo è molto più vicino, diciamo, al documentario visto come cinema reale. Non c'è un intervento importante, si raccontano semplicemente e ci portano proprio dentro quella realtà e ce la fa vedere. Sì. E già, domani lo conosceremo, David Fedele, che arriva da Lampedusa, dove appunto ha vinto il Festival di Lampedusa. Poi ha vinto a Lugano, a Parigi, ed è stato in Italia solo appunto a Lampedusa la scorsa settimana e poi da noi. Beh, un appuntamento importante. Danilo, per quanto riguarda la programmazione e tutte le informazioni, ci dai un sito internet di riferimento? Sì, festivaldeleterre.it. Benissimo. Allora, ricordiamolo. Del nuovo cinema Aquila. E anche il sito, certo, del nuovo cinema Aquila. Ricordiamolo, undicesima edizione del Festival delle Terre, Roma, nuovo cinema Aquila, 17-19 ottobre. Danilo, un abbraccio, un in bocca al lupo. Scrivi il lupo, grazie a voi. A presto. Ciao. Ciao. Sì, ciao. Bene, è con noi Manfredi Lucibello, regista del film 140, La strage dimenticata. Manfredi, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Allora, per chi ci ascolta, cos'è questo titolo, di cosa si racconta? Sì, 140, La strage dimenticata è questo documentario che tratta la vicenda del Moby Prince, ovvero la tragedia successa nel 91, quando il traghetto della Moby Prince si schiantò con la petroliera Agip Abruzzo e persero la vita 140 persone. Sì. È un film che cerca di raccontare, oltre questo terribile scontro, tutti i 20 anni che sono costellati da menzogne e sabotaggi, ecco. Senti, intanto ti chiedo come è nata l'idea del progetto a distanza, insomma, così lunga dai fatti. Ecco, io sono dell'84, quindi ero proprio un bambino. Sì. Quando è successo, avevo 7 anni e sono fiorentino, quindi è una cosa che l'incidente è successo un'ora da casa mia, quindi nei telegiornali è una cosa che sentivo anche da bambino negli anni, risentivo, una tragedia molto sentita in Toscana. Sì. Però non ne sapevo niente, pensavo fosse un incidente per colpa di una partita di calcio, come appunto si diceva. Quindi pian piano ho iniziato a informare, prendere documenti, leggere, sentire persone, ho capito che c'era proprio bisogno di raccontare questa storia, perché non purtroppo nell'immaginario collettivo c'era, aleggiava quest'idea di un incidente per un errore umano, invece tutt'altro, ecco. Ecco, infatti parlavi di depistaggi, menzogne, cosa hai scoperto nel raccogliere informazioni? Allora, a dire la verità, cioè, nel mio film non ci sono tesi nuove, teorie nuove. Ovviamente ho cercato di raccogliere più informazioni possibile da tutti i punti. È stato anche un grosso lavoro di ricerca di materiale d'archivio proprio nei tribunali. E ho cercato di rimettere insieme piccoli pezzi, frammenti di verità che erano praticamente sparsi in questi 20 anni. Perché si sono seguite varie cose, vicende, pian piano veniva sempre fuori uno scenario, possiamo dire, inquietante, perché a distanza di 7-8 anni sparivano pezzi all'interno del Moby, la scatola nera e via dicendo, anche pezzi inutili, no? Come orologi, piccoli gesti fatti da chi voleva nascondere la verità. E nel film si cerca appunto di raccontare tutti questi pezzi di verità e di trovare una sorta, se possibile, perché gli anni ormai sono passati più di 20 anni e quindi è molto difficile ritrovare la verità, ma si cerca di metterla un po' insieme. E ci tengo a dire che è stato un lavoro, un grosso lavoro, soprattutto a parte dell'associazione dei familiari, che si sono messi a disposizione e hanno aperto anche i loro archivi privati di questa vicenda, perché sono gli unici che a distanza di 20 anni continuano a lottare e a cercare la verità. Ecco, a proposito di ricerca della verità, a che punto sono le indagini e le verità? Allora, circa un anno fa Grasso disse di voler riaprire il caso. Questa cosa non è ancora avvenuta e i familiari stanno ancora lottando, nel senso, proprio in questi giorni, una cosa di un mese fa, Chessa, che è uno dei familiari delle vittime, ha fatto una petizione e ha raccolto 21.000 firme per richiedere la riapertura del caso e di riaprire gli archivi top secret, un po' come hanno fatto nel caso Ilaria Alpi. Si sta aspettando queste novità. Vediamo se la politica si muove in questo caso. Vediamo, siamo in attesa. Certo, queste persone sono in attesa da 23 anni, quindi per loro è una situazione molto complicata, certo. Però stanno ancora portando avanti questa battaglia. Ecco, proprio a proposito dei familiari delle vittime, volevo chiederti qual è la tesi più forte che sostengono. Allora, negli anni si sono susseguite centinaia di tesi e teorie, perché c'erano sempre queste figure, alcune abbastanza oscure, che riportavano casi come la bomba, no? Che c'è stato un periodo si è parlato di bomba perché si sono trovate tracce del Semtex all'interno della nave. Il Semtex, come sai, non è uno esplosivo a caso, è un esplosivo che in Italia ha un forte significato, perché è lo stesso dell'Italicus, di Via Emilio e di altre stragi, e quindi riporta subito a quelle stragi famose italiane, ecco. Però anche quella tesi è crollata, perché non si vedevano segni, non si sa chi l'ha messo e perché, quindi i familiari si sono sentiti dire milioni di tesi. Al giorno d'oggi invece rimangono dei punti fermi, ovvero i soccorsi non sono arrivati in tempo, e quello è un punto chiave, perché alle 3 di notte hanno deciso che erano già tutti morti, e invece si è scoperto che alle 7:30 del mattino, il giorno dopo, c'era anche qualcuno, si poteva ancora salvare. Quindi questo è un punto fermo. L'altro punto sono le responsabilità dell'Agip, dell'altra, e quindi diciamo dell'ENI in qualche modo, che non è mai stata sentita e portata a processo, e non per ultimo anche diciamo il comandante della capitaneria di porto. Quindi si sono fermati su 3 punti fissi, abbandonando tutte quelle teorie che riaprirebbero dei misteri, cioè cercano almeno la verità in quella, in una verità che è tangibile ancora adesso. Oh, Manfredi, il tuo documentario ha passato diversi festival, almeno un paio di quelli di cui sono a conoscenza, tra i più importanti. Volevo chiederti che tipo di circuitazione è prevista. Allora, abbiamo deciso di mettere il film online per renderlo più fruibile a tutti. Si può trovare nel sito dell'Espresso. Basta digitare 140 la strage dimenticata, oppure nel sito della casa di produzione, che è www.pulsemedia.it. Rispetto... uscirà anche un... pronto? Sì, dicevi, uscirà anche? Uscirà anche un DVD, ora non sappiamo ancora i tempi, però vicino alla data della ricorrenza, e poi sarà prevista un'altra uscita nei cinema, appunto il 10 aprile, il giorno della memoria del Moby Prince. E allora magari avremo occasione di risentirci magari a ridosso di quella data. Certo. Manfredi, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Ti ringrazio e buon lavoro. Ciao. Manfredi Lucibello, regista del documentario 140, La strage dimenticata. Ecco, noi Tommaso Fagioli di Good Short Films. Ci sei, Tommaso? Sì, salve a tutti. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Cominciamo con lo spiegare cos'è Good Short Films, Tommaso. Allora, Good Short Films è una piattaforma web italiana interamente dedicata ai cortometraggi. Sì, ed è un progetto che è realizzato insieme a Good Films, che è una società di distribuzione italiana che hanno distribuito Nymphomaniac dalla Sbaglios Club, e abbiamo iniziato insieme questo progetto ad aprile, diciamo. Ad aprile scorso. Mm-hmm. Ad aprile scorso, sì. Oh, adesso c'è una novità che riguarda questa Good Short Films, perché ci sarà on web gratuitamente. Sì, esatto, cioè questa è proprio la diciamo il cuore del progetto è proprio questo, che noi proponiamo il cinema breve e corti italiani e internazionali sul web gratuitamente. Un utente può andare sul nostro sito, che è www.goodshortfilms.it, e può scegliersi qualsiasi film da vedere in qualsiasi momento e dovunque è, praticamente, perché essendo sul web, su tablet, telefonini, in qualsiasi momento può vedersi un film. Questo è il servizio che proponiamo. Ecco, con quali finalità era nata la Good Short Film? E poi volevo chiederti anche rispetto all'archivio che avete adesso a disposizione. Ma cominciamo con la prima domanda. Diciamo che l'idea è nata sostanzialmente osservando quello che sta accadendo negli ultimi anni. Io sì. Mi sono accorto che il cinema breve sta attraversando una specie di rinascita, ma però non è più soltanto un testing ground per registi che vogliono diventare grandi, e non è più soltanto limitato al circuito ristretto dei festival, ma in qualche modo diciamo che è un format che si sta rinnovando e che è un nativo digitale, nel senso che io l'ho inteso come un contenuto che è fatto apposta, anche per la brevità ma anche per il tipo di linguaggio che propone, per essere proposto in rete. E quindi ho detto, in Italia non c'è nessuno che si occupa di questo format, non esiste una piattaforma, me la invento io, ho pensato, e quindi ho proposto questo progetto a Good Films e siamo partiti. Sì, perché poi in effetti il senso comune è quello che il cortometraggio sia una specie di trampolino di lancio per i film più lunghi per un autore. Invece in questo modo mi sembra che stiate rendendo dignità ad un formato che ha una sua peculiarità. Gli rendiamo dignità e lo rilanciamo, perché diciamo che si sono verificate condizioni un po' inedite, perché un po' l'abbattimento di costi di produzione, un po' i social media, un po' i linguaggi si sono in qualche modo evoluti. Tutte queste condizioni creano un contenuto che in effetti ha dei connotati innovativi, un contenuto che è innovativo per il linguaggio, innovativo per la maniera in cui è realizzato tecnicamente, innovativo perché esce dalle sale ed entra nel mondo, perché alla fine un cortometraggio attraverso anche la nostra piattaforma uno lo può vedere, non so, sta in fila alla posta, non sa che fare quella mezz'ora che aspetta, dico, sai che c'è, io mi guardo un cortometraggio, sì. E lì c'è una piattaforma con dei tool per cercarsi il film adatto, perché noi abbiamo diviso in genere, topic, style, runtime, country e year. Quindi uno dice, io mi voglio vedere oggi un documentario, uno short doc, non so, inglese di 3 minuti che riguarda non so, le bombe, per dire, i robot, ecco, e lo può fare attraverso la nostra piattaforma. Senti, sì, dimmi. E gratuitamente, chiaramente. E gratuitamente, sì, certo. Sì. Volevo chiederti l'archivio al momento di quante opere consta, e poi quali sono i criteri di scelta che avete attuato? Allora, diciamo, per ora ci sono un centinaio di film, ognuno è selezionato, e noi facciamo questa ricerca attraverso i festival e nel mare magnum del web, e ci inviano anche, quindi selezionato e curato da noi, sì. E quindi scriviamo tutte delle informazioni per capirlo meglio, per vedere chi l'ha girato, link per andare alla casa di produzione per uno che vuole approfondire, e sono tutti free. E poi però abbiamo anche altre sezioni, abbiamo delle esclusive, delle anteprime online. E quindi sono film che, diciamo, per la prima volta sono online, e noi ci facciamo promotori e presentiamo al pubblico, al nostro pubblico che è italiano e internazionale, perché il nostro sito fra l'altro è sia in italiano che in inglese, quindi può essere visto da chiunque. E poi abbiamo lanciato questa collaborazione proprio ieri con l'Huffington Post, perché a un certo punto ho pensato, forse è giusto che i corti incontrino il giornalismo online, perché è l'ambiente loro ideale, ed è giusto che vengano in qualche modo promossi a un'audience anche più ampia, e questo ci consente anche di proporre più anteprime, andando in giro per i festival e vedendo corti che sono premiati, ma ci sono anche tanti corti che noi vediamo che magari non ricevono premi, ma sono belli, sono molto belli, per cui noi cerchiamo di farli arrivare a un audience maggiore possibile. Tra l'altro, la nostra missione. Tra l'altro, il web mi sembra il canale migliore per un linguaggio come quello dei cortometraggi, e basti vedere insomma il florido successo di strumenti come YouTube, insomma. Sì, sì, assolutamente, è proprio la sua destinazione ideale. Sì, sì, sì. È per questo che c'è quella che noi chiamiamo rinascita del cinema breve o del cortometraggio. E comunque la risposta, diciamo, la nostra missione editoriale in Italia è proprio questa, cioè far familiarizzare il pubblico con questo format, cioè non è più un prodotto, magari un'arte minore, fatta un po' così, limitata al circuito dei festival, ma ha proprio una sua dignità, ormai c'è proprio una sua autonomia di linguaggio. C'è anche un cinema breve di ritorno, anche i grandi registi tornano a fare corti, per ora magari lo fanno come branded content o come fashion shorts, Wes Anderson e tanti altri, ma diciamo che il cinema breve non è un cinema lungo ridotto, ha proprio una sua autonomia, è proprio una sua, è una nuova calligrafia. È un altro linguaggio, sì, sì, sicuramente. È un altro linguaggio, sì, e quindi sì, siamo contenti anche della ricezione, perché comunque da aprile che siamo andati online abbiamo finalizzato anche un concorso che abbiamo fatto con il gruppo biofarmaceutico Dompé, rivolto a giovani sceneggiatori, e che è andato bene. C'è stato un vincitore calabrese che ha mandato la sua sceneggiatura, è stata scelta, è stata votata da noi, da Alvaro Arzacher e da Natalie Dompé, che era corporate responsible di Dompé, e da Edoardo Winsper. E insomma, adesso stiamo per produrre questo corto con Duccio Chiarini, che ha presentato a Venezia Short Skin, che è un progetto della Biennale College, e questo corto verrà poi presentato il 13 novembre in conferenza stampa, e poi il 14 novembre, che è il D-Day Dompé, dove loro presentano questo progetto che era finalizzato a far conoscere il mondo della ricerca attraverso l'arte del cortometraggio. Bene. E finalmente siamo arrivati ad oggi con l'Huffington Post, anzi ieri, quindi siamo contenti di questo curriculum, diciamo, speriamo di andare anche avanti meglio. Bene, un po' di informazioni utili ce le hai date, chiudiamo con nuovamente il riferimento web per chi volesse saperne di più? Sì, certo. Allora, www.goodshortfilms.it, ci sono anche tutti i nostri social, potete trovare la pagina Facebook e Twitter anche, oltre a Tumblr e Instagram. E poi da ieri potete trovarci sull'Huffington Post, in colonna sinistra abbiamo un nostro blog, Good Short Films, dove metteremo una selezione dei migliori film, ma anche articoli, approfondimenti, e una volta a settimana metteremo invece sul lato destro un'anteprima, cioè un film che per la prima volta online che selezioniamo in giro per il mondo e per i festival. Benissimo. Allora, un abbraccio, a presto per le novità. Grazie, grazie a voi. Ciao Tommaso. Tommaso Fagioli di Good Short Films sul progetto web. Massimiliano Davoli, regista del documentario A Burning Dream. Massimiliano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, salve a tutti. Allora, raccontaci un po' di questa storia. E allora, è un progetto molto particolare, nel senso è anche l'unico documentario italiano girato mai al Burning Man Festival. Parte tutto da una storia personale, nel senso che in un momento particolare della mia vita, in cui uno dei miei migliori amici è morto, insomma, io sono partito letteralmente in giro per il mondo in cerca di, in uno di quei momenti particolari in cui rimetti tutto in gioco, no? E anche i tuoi valori, il perché stiamo qui, il dove andiamo, e quindi sono letteralmente partito andando a Roma, Londra, San Francisco, alla ricerca, tra virgolette, del senso di tutto questo, chiedendo alla gente quale fosse il loro mondo perfetto, se loro fossero felici. Per cui in questa ricerca, alla fine, quello che è venuto fuori è stato che tutti più o meno anelavano a questo ideale, tra virgolette, mondo perfetto, dove non è tutto regolato dai soldi, dove lo status sociale non è dato dal lavoro che tu fai, ma da chi veramente sei. Insomma, alla fine loro, senza saperlo, stavano in realtà descrivendo questo Burning Man, che è un una città in mezzo al deserto del Nevada, per intenderci vicino all'area 51, in mezzo al nulla, dove si radunano circa, penso quest'anno, 65.000 persone da tutto il mondo, e loro, quelli del Burning Man, costruiscono già da mesi prima questa enorme, enorme, gigantesca città, dove è regolata. Non ci sono soldi, ecco, è vietato lo scambio di soldi. Ti chiedono di partecipare alla città con un senso di libertà estrema, e tant'è vero che la verità dei fatti è che almeno il 40% del mio girato non l'ho potuto montare, ed è tutto basato su un senso di espressione artistica, a volte anche in senso estremo, per cui la mia... Questo film parla di un inizio per cui io parto per una ricerca personale, poi arrivo lì e la gente può vivere in questo film, attraverso gli occhi di una persona che non è mai stata lì, quello che veramente succede e i cambi che ti avvengono nel cervello. Io fondamentalmente ho fatto sia la regia ma anche la persona, insomma, in prima persona, ed effettivamente alla fine del film ti rendi conto che il punto di vista delle persone, di come tu puoi interagire con loro, delle tue potenzialità e della vita in generale cambia tanto dopo sì. un viaggio in quel posto. Sì, sì, sì. Una delle caratteristiche è che tutte queste persone, almeno da quello che sentivo nel documentario, in una delle tue interviste, è che non sono professionisti del mondo artistico, magari nella vita fanno tutt'altro. Sì. E beh, lì una cosa importante è che l'ultimo giorno la città viene bruciata al suolo, e con la città vengono bruciate al suolo queste opere d'arte fantastiche, per cui da un lato ci sono artisti molto conosciuti che mettono a disposizione queste sculture, questi pezzi d'arte bellissimi, consci del fatto che poi alla fine verranno bruciati, ma la maggior parte delle persone, in realtà, questi sono i figli dei figli dei fiori, che oggi sono quelli della New Economy californiana, per cui là in mezzo ci trovi anche quelli che stanno a capo della Google, della Mac o di Facebook, ecco, tutta questa gente che in realtà è riuscita a trovare un connubio, diciamo, tra questa visione artistica della vita e poi la società, il lavoro vero e proprio, vanno lì e diciamo che ci sono, una delle leggi del Burning Man è no spectators, no spettatori, per cui se tu vieni qui in qualche modo vogliamo che tu contribuisca, non è un festival dove tu paghi il biglietto e ascolti la canzone, ti si chiede veramente di provare a costruire insieme, anche se solo per 8 giorni, questo mondo perfetto, questa società alternativa, in modo che poi ovviamente nessuno dice che quello sia il mondo perfetto, perché il documentario si chiama Burning Dream, un sogno che brucia, perché appunto è una cosa utopica, è un sogno. Quello che si cerca di costruire è un bellissimo input basato su fondamenti artistici e di società, che poi una volta diffuso nella società normale, diciamo, possa produrre degli effetti positivi, ecco, non è che loro dicono. E sì, tu giri là intorno e ti rendi conto che parli con scienziati dell'MIT, parli con super manager della Mac, con informatici, eppure lì in mezzo, quindi destrutturati di quello che loro sono nella loro vita normale, si diventa tutti parte di questa specie di Wonderland. E io in questo film sono un po' Alice del Paese delle Meraviglie, e i vari personaggi che per fortuna ho potuto conoscere, mi sono reso conto che veramente quando vai al di là delle apparenze, è pazzesco come nel mondo noi poi alla fine siamo regolati da ciò che ci rappresenta, per cui sì, tantissimi artisti e persone che collaborano materialmente alla creazione di questo evento, poi nella vita normale vai a scoprire che sono tutt'altro. Leggendo qualche informazione online, ho visto che si tratta del più importante, più grande festival all'aperto negli Stati Uniti e d'America, però ci sono anche altre due notizie che volevo chiederti conferma, che mi hanno un po' incuriosito in senso negativo, nel senso dal 2013 le autorità hanno imposto un tetto massimo di presenze che era stato 68.000 nell'edizione del 2013, e oltre a questo c'è un biglietto d'ingresso di $380, o sbaglio? Allora, riguardo il biglietto d'ingresso non è una cosa negativa, nel senso che ci deve essere per forza, nel senso che questa gente lavora 365 giorni l'anno alla creazione di questo evento, sì. E è una cosa grande quanto due quartieri di Roma, è immensa, e quando vai lì ti rendi conto che lo sforzo fisico, monetario, produttivo è di 3-4 mesi di lavoro, per cui per forza di cose questa cosa deve essere finanziata, per cui tu sì, è vero che paghi, ma perché è come se contribuissi anche tu alla creazione di tutto ciò. E poi c'è da dire che il Burning Man, la Burning Man Art Foundation, è una serie di cose per cui loro costruiscono, sponsorizzano gallerie d'arte, pannelli solari, quindi oltre l'evento degli 8 giorni loro sono attivi 365 giorni l'anno su tutto ciò che è sociale, ambientale o arte. Il resto che mi dicevi, del tetto. Sul tetto delle presenze. Il tetto di persone, secondo me, è una cosa giustissima, nel senso che questo evento nacque nel 1986 per poche persone, sì. E alcuni dicono che lo spirito originario del festival si è un po' perso, perché per forza di cose con gli anni e col numero di persone che arrivano da tutto il mondo è diventato un po' una cosa commerciale, una festa, un po' si è perso l'aspetto spirituale, che è quello su cui ho incentrato il mio film, però io adesso nel mio film non lo mostro, ma c'è anche tanta festa, divertimento, mettiamola così, anche tanto commerciale, sì. E per cui diminuire il numero o cercare di non farlo arrivare a un evento di 80.000, 90, 100.000 persone, dal mio punto di vista può solo preservarne lo spirito originale, e poi probabilmente anche per motivi di sicurezza. Di sicurezza. Sì, io so che lo Stato del Nevada l'anno scorso ha addirittura provato a mettere una super tassa per incontri di un certo numero di persone, perché in realtà glielo volevano far chiudere, ma non ci sono riusciti fortunatamente. Senti Massimiliano, è stato a qualche festival, sì. Che tipo di distribuzione hai pensato per il futuro? Sì. Allora, per questo film ovviamente il percorso è del tutto particolare, nel senso che io sono partito con due telecamere e un furgone dei traslochi. È stato fatto solamente grazie alla fortissima mia volontà e anche alla partecipazione e alla bravura di persone che poi hanno lavorato su una forza lavoro che ho stimato di il budget della forza lavoro altissima, dei soldi spesi qualche migliaio di euro, però per farti capire chi ha fatto la post audio, ha fatto la post audio della grande bellezza e così via, quindi una serie di persone che si è messa insieme, tutti diventati ovviamente produttori associati del film, e che sono riusciti a creare questo prodotto, e così come è nato in maniera particolare, alternativa tra virgolette, così continua anche la sua fruizione, nel senso che adesso il film è rappresentato dalla Mimesis Culture, che è una società di produzione e distribuzione che è a Berlino. In realtà non ha ancora una distribuzione vera e propria, però quello che ho pensato, visto dove l'ho fatto, visto di che persone parliamo e anche per quali persone, a quali persone si riferisce questo film, stiamo puntando su una distribuzione tra virgolette virale, nel senso che siamo su Vimeo on demand, ci ha contattato Vimeo e sono stato molto contento di questo, ci ha proposto un contratto per cui il film adesso è disponibile in streaming o in download comprandolo su Vimeo on demand. Vimeo adesso da un paio d'anni ha questa piattaforma on demand, sì. Poi è stato al Festival di Torino Cinema Ambiente, andato al Zagreb Docs e così via, per cui quello che stiamo cercando di fare è fare arrivare il film alla gente Fortunatamente questo film può andare nei quattro angoli del mondo, perché insomma l'argomento e il posto è universalmente internazionale, universale, sì. E attraverso una fruizione che sia quella di internet, che sia quella dei festival, già chiamato il Radio River Music Festival, che per esempio è un festival di musica elettronica, non di, di cinema, eppure ci ha chiamato perché questo film riguarda la musica, riguarda i viaggi, riguarda la controcultura. Sono stato molto contento, hanno voluto fare uno screening in questo festival che ospitava 48.000 persone in Polonia e il cui focus fondamentalmente è la musica elettronica. Sì. Quindi festival, internet, ovviamente chiunque fosse interessato può contattare la Mimesis Culture, perché non sto dicendo che direi no a una distribuzione canonica, tradizionale, anzi ben venga, però con i mezzi che abbiamo intanto ci arrangiamo e stiamo cercando di insomma usufruire di un tipo di distribuzione che è più trasversale, virale, visto che oggi esistono le possibilità, insomma. Bene Massimiliano, io ti abbraccio, ci sentiamo per le prossime novità. Grazie a te e a prestissimo. A presto. Grazie. Ciao. Salve. Massimiliano Davoli, regista del documentario A Burning Dream. Ecco noi Silvia Luzzi, co-regista del documentario La Preda, Silenzio in nome di Dio. Silvia, ben ritrovata. Ciao, grazie, grazie a voi. Allora, insieme a Luca Bellino, per questo lavoro che non è destinato al mercato italiano, spiegaci un po' come è nato e come si è sviluppato. Allora, sostanzialmente avevamo un po' l'urgenza di raccontare alcune storie relative alla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Sì. E storie che di fatto non erano uscite sui media italiani, sai che in Italia insomma è un po' complesso parlare di questi temi. E, in accordo con una emittente internazionale che si chiama Press TV, che trasmette in lingua inglese in tutto il mondo, abbiamo insomma realizzato questo documentario, che è un documentario di fatto ha una cifra stilistica televisiva, perché appunto è per il mercato televisivo, forse internazionale. E lo spunto è nato appunto da alcune storie che avevamo incrociato e che valeva la pena appunto di raccontare, insomma valeva la pena dargli voce a queste persone che di fatto da anni cercavano di far uscire fuori queste notizie e non ci riuscivano. Come lo avete strutturato? Sostanzialmente abbiamo raccontato storie diverse. Sì. Siamo partiti dalla Liguria, da Savona, dove ci sono diciamo i casi di abuso più numerosi, o comunque sia dove c'è un'associazione che si chiama Rete l'Abuso, che diciamo ha avuto la voglia e il coraggio insomma di raccogliere un po' tutte le denunce e metterle insieme. E poi ci siamo spostati a Verona, dove c'era appunto la storia più complicata, è la storia dell'Istituto Provolo di Verona, che è un ex istituto per ragazzi, bambini, minorenni, comunque sordomuti, e dove di fatto è avvenuta negli anni una mattanza, diciamo, non bisogna esitare a chiamarla così, perché sono stati oltre 200 i casi di minorenni abusati dai sacerdoti appunto di questo istituto. Considera che a Verona ancora non si può parlare di questo, tant'è vero che noi non abbiamo avuto nessun permesso per girare in città e per diciamo intervistare e raccogliere le testimonianze di queste persone, e si hanno dovuto spostare a Mantova. Quindi è stato insomma abbastanza complicato, perché la colpa di silenzio è enorme, soprattutto sul caso di Verona, che ti ripeto è un caso molto molto complesso. Poi abbiamo rintracciato un sacerdote che si chiama Don Giovanni Lupino, che è una piccolissima chiesa arroccata in un paesino in provincia di Savona, che è un sacerdote che non diciamo lesina denunce invettive, contro appunto chi commette reati su minori all'interno della Chiesa Cattolica, e che per questo ovviamente è stato gentilmente spostato in una piccolissima parrocchia, e abbiamo scoperto poi una pratica di fatto usuale e tra l'altro conosciuta, anche scusa niente di nuovo, ma insomma ce la siamo fatta dire da un vescovo, che è quella sostanzialmente di spostare, cioè la Chiesa quando sa, quando viene a conoscenza dei casi di reato, quindi di abuso sessuale su minori, non denuncia ma sposta diciamo l'interessato, quindi l'abusatore, da una parrocchia all'altra. Questo in Liguria è successo per anni, e con il risultato ovviamente che queste persone perpetravano ovviamente nel reato. Abbiamo poi rintracciato anche una clinica dove questi sacerdoti vengono, diciamo, noi diciamo nascosti, il Vaticano dice di fatto curati. Di fatto la legge italiana non sa dove si trovino, quindi diciamo nascosti forse il termine più giusto, che ce ne sono due, una a Trento e una a Roma, appunto, dove i sacerdoti che hanno vari tipi di problematiche con il sesso, ma anche con l'alcol o con le droghe o con il gioco, vengono diciamo ricoverati e tenuti lì per 6, 8, 10 mesi, fino comunque a 3 anni, insomma. Mm-hmm. E questo è stato un po' diciamo la struttura del documentario, che ti ripeto parte più che altro dalle testimonianze insomma, che abbiamo raccolto, e che sono abbastanza raccapriccianti. Ecco, la politica vaticana in tal senso un po' l'hai descritta. Volevo chiederti quanto è diffuso a livello percentuale, magari, se visto che avete comunque effettuato una ricerca, il fenomeno. Guarda, di fatto i dati ufficiali, quelli del fenomeno, sono quelli del Vaticano, che appunto dice che sono il 2% di fatto nella Chiesa Cattolica ha compiuto nel mondo, parliamo di dati mondiali, questo tipo, e compie questo tipo di reati. Secondo la fonte vaticana. Secondo il Vaticano il dato ufficiale è questo. I dati ufficiali, diciamo ufficiali nel mondo, purtroppo non ci sono, ma non perché non ci sia volontà di averli, ma perché la denuncia a volte arriva molto tardi, a volte non arriva. Mm-hmm. Noi abbiamo avuto testimonianze di persone che sono state totalmente allontanate dalla comunità stessa, quindi non solo diciamo la Chiesa, la loro parrocchia ha fatto in modo insomma di sminuire le loro denunce, ma la comunità dei credenti stessa li ha allontanati, quindi sono persone che poi di fatto si vedono strappare totalmente la rete sociale, perché sono appunto persone che frequentano quel tipo di ambiente, quindi che hanno la rete sociale appunto nelle parrocchie. Il dato è diffusissimo, di che ne vogliono dire, le promesse adesso nuove col nuovo Pontefice sicuramente ci saranno, sono buone, tutti ci vogliamo credere. Fatto è che laddove ci sono state fatte delle class action, come per esempio in America, la Chiesa ha pagato risarcimenti miliardari perché appunto non era vero insomma che queste cose non succedevano, e anzi succedevano tantissime, e la Chiesa appunto ha pagato risarcimenti miliardari, come in Irlanda, come in Francia, ma soprattutto negli Stati Uniti. In Italia questo non è avvenuto, di fatto l'Italia è il paese che ospita il Vaticano, e quindi di fatto anche la presa di coscienza, di consapevolezza delle vittime è tarda ad arrivare, e quando arriva diciamo non trova spazio neanche sui media, perché non ci sono proprio possibilità di far uscire questo tipo di cose assolutamente. Senti Silvia, parlavi di un paio di strutture che si occupa del recupero, chiamiamolo così, tra virgolette, dei colpevoli. Volevo sapere invece se ci sono strutture per chi subisce questo tipo di violenza. Ecco, esatto, ti ringrazio della domanda, perché di fatto laddove c'è tutela diciamo per il malato, perché poi la pedofilia è una patologia, un reato ma anche una patologia, non c'è assolutamente tutela da parte del Vaticano, non c'è alcun interesse, ma anche da parte dello Stato in generale, per le vittime di abusi sessuali quando gli abusi sessuali si sono verificati all'interno della Chiesa Cattolica. Sostanzialmente queste vittime, questi ragazzi, poi adulti a volte, quando denunciano, vengono lasciati completamente da soli, completamente abbandonati, e devono affidarsi per mano propria ovviamente ai servizi sul territorio, quindi quelli normali, insomma, che prevede lo Stato italiano. Non c'è una tutela, diciamo, particolare, ma io non dico perché questo sia un reato particolare, perché ogni reato di pedofilia è particolare e è brutto a sé, però in questo caso, nel caso del Vaticano, il problema è che la denuncia, diciamo, ha un percorso tutto suo, che quindi viene spesso offuscata, insabbiata, ci raccontano le vittime che gli veniva suggerito da più parti, ma dai, ma lascia perdere, ma vedi che non è così, insomma, ci sono, è più difficile in questo senso, e loro non hanno nessun tipo assolutamente di tutela, anzi, ti ripeto, spesso e volentieri io conosco una madre con una bimba di 11 anni che si è spostata, ha cambiato proprio città, perché era impossibile, diciamo, la sua vita lì dove viveva dopo che aveva denunciato, quindi immagino, insomma. Silvia, dicevamo di un prodotto destinato al mercato estero, per chi sta qui in Italia sarà possibile fruirne in qualche modo? Guarda, il documentario infatti è online, noi abbiamo un documentario online, senza nessun tipo di problema, si chiama The Pray Silence in the Name of God, e è fruibile online su YouTube, quindi si trova tranquillamente, ovviamente per molta parte in inglese, nel senso che diciamo si prevedeva un voice over, e questo voice over è ovviamente in inglese, le testimonianze però sono tutte italiane, e quindi diciamo la testimonianza, che poi un po' il clou del documentario, si può tranquillamente ascoltare, sempre se uno non capisce l'inglese, altrimenti insomma si trova comunque tranquillamente online. Benissimo. Silvia, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Ti ringrazio molto, grazie, arrivederci. Ciao. Silvia Luzzi, co-regista del documentario La Preda, Silenzio in nome di Dio. Flavio Perazzini del collettivo Lele Marcoianni, regista del documentario Sale, ci sei? Ci sono, ciao a tutti. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Io direi di cominciare intanto parlando del collettivo Lele Marcoianni. Sì, allora Lele Marcoianni è un collettivo di narrazione visiva e di storytelling, che è una parola che oggi tra l'altro è anche un sacco abusata, e nasce 4 anni fa, unisce 3 persone in un nucleo principale che si occupavano di racconto e di racconti visivi in ambito differente, e poi un po' a seconda dei vari progetti cresce, si rimpicciolisce, eccetera eccetera. Questo più o meno. Sì. E delle Marcoianni. E questo lavoro Sale? Allora, Sale è un mockumentary che è nato in un contesto molto particolare. È nato un anno fa durante un festival che si chiama Piemonte Documentary Film Festival, che è uno dei pochi esempi che abbiamo in Europa che lavora su mockumentary, e che invita alcuni autori, 7 truppe di autori, a produrre in 3 giorni in un posto abbastanza desolato, si parla di Valle Occitane sopra Cuneo, eccetera eccetera, invita in 3 giorni a realizzare un'opera, un documentary, coinvolgendo totalmente la piccola comunità dove si è mandati. Quindi una produzione molto particolare, e noi siamo stati a realizzare Sale in un piccolo paese che si chiama Canosio. Sì. Completamente impreparato ovviamente a quello che stavamo andando a realizzare, e niente, poi è nato questo mockumentary che parla alla fine di abbandono, l'abbandono di una comunità che in questo caso è Canosio, che è una piccola comunità montana della Valle delle Occitane, ma che riguarda a livello generale un po' tutte queste aree, queste zone di montagna. Volevo chiederti, ecco, come era finita la scelta su questo paese, come era partito il tutto, e poi che struttura avete dato al lavoro? Allora, la scelta in realtà è stata non nostra, ma del festival, perché proprio per capire poi come nascono anche dei racconti in maniera particolare, il festival decide e ti comunica solamente l'ultimo giorno dove tu devi andare a lavorare, e quindi noi siamo stati catapultati in questa realtà. Non ci eravamo preparati sul lavoro, non avevamo scritto un soggetto, proprio una dinamica completamente diversa da quella standard e classica, che poi è una dinamica che oggi in realtà può essere anche molto funzionale. E quindi siamo stati catapultati in questa realtà, e lì abbiamo iniziato in pochissimo tempo a raccogliere un po' l'istanza del posto, ed è nato Sale, che è un mockumentary, quindi un finto documentario, che cerca di raccontare l'abbandono di questo territorio con una provocazione alla fine, che è quella di fare innalzare il livello del male in modo che la comunità montanara, essendo a livello del mare zero, potesse godere del trattamento politico, sociale ed economico che invece hanno gli altri paesi che non sono comunità montanare, e quindi in qualche modo cambiare e spostare questo abbandono, dove loro invece a proprio livello politico, sociale, culturale vivono. Quindi è questo, è il mare che si alza per far vedere che ci siamo ancora. Questo è Sale. Senti, e oltre all'innalzamento del livello delle acque, stanno praticando nel paese qualche formula e qualche azione per evitare questa morte del paese? Ma guarda, assolutamente sì, ti trovo in tantissimi modi, però il vero ostacolo è proprio quello politico, perché queste comunità non sono tutelate, o meglio, sono tutelate come se non fossero in montagna, e quindi hanno delle logiche di amministrazione imposte da, in questo caso, Torino, eccetera, eccetera, che però non prevedono la differenza che c'è da vivere isolati in una comunità di 80 persone a 1600 metri, eccetera, eccetera. E quindi il loro sforzo, prima di tutto, è quello di cambiare, di diventare una particolarità che ha bisogno di un'attenzione diversa a livello sociale e politico. E poi per il resto, così, ci sono anche tantissimi giovani che in realtà fino a poco tempo fa abbandonavano subito questi paesi per trovare una strada da in città o da altre parti, che invece stanno tornando e stanno cercando di riprendere, rivalorizzare lavori che montanari, che invece negli ultimi 20 anni erano completamente abbandonati, ma certo, lo fanno con tantissima difficoltà anche immagino, loro. Immagino. Senti, per quanto riguarda la distribuzione, c'è modo di vederlo in qualche modo, o ci sarà in futuro, Flavio? Guarda, Sale è dentro questo circuito bellissimo, ma anche fragilissimo, di festival. Sì. E quindi per ora Sale gira i vari festival e si vede durante le proiezioni di speriamo di presto trovare una piccola distribuzione, può essere che ci sia qualcuno interessato, per riuscire a farlo vedere il più possibile. È una piccola opera che, come tante molto opere piccole ma molto belle in Italia, fa fatica a trovare una vita propria, se non con qualcuno che è, quindi come può essere un festival, la dinamica di queste situazioni, che lo accolga e lo proponga. Altrimenti, come dico sempre io a tutti, andate su Vimeo e ve lo vedete. Senti, in chiusura diamo i riferimenti internet del collettivo Lele Marcoianni? Certo, www.lelemarcoianni.com. Benissimo. A questo punto io t'abbraccio e ci sentiamo presto, spero, per altre cose. Vi abbraccio anch'io, grazie, grazie a te. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Flavio Perazzini del collettivo Lele Marcogliani, regista del documentario Sale. Oh, avremmo dovuto avere un altro paio di collegamenti con Mario Martone, regista del film Il Giovane Favoloso, in uscita in sala oggi giovedì 16 ottobre, ma è in treno e la linea l'abbiamo persa. E idem per quanto riguarda Fabio Gianotti, regista del documentario Cronaca di una vita semplice, il quale invece ha un telefono che si sta scaricando e quindi non ce la fa, e ci sentiamo giovedì prossimo spero anche di aver modo di sentire Mario Martone per il film al quale tra l'altro abbiamo dedicato la copertina di questa puntata, con la foto di Elio Germano che interpreta chiaramente Giacomo Leopardi. Quindi a questo punto passiamo ai saluti. Per quanto riguarda Visionari, tutte le informazioni sulla puntata di oggi e sulla trasmissione in generale le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Idem per quanto riguarda Facebook, c'è la pagina Visionari, l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Sulla scaletta trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 16 ottobre, nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, il link per riascoltare la puntata precedente ma anche l'archivio del 2014, di tutto quest'anno e dell'anno precedente 2013. Buon proseguimento, ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15.